Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. In quel momento K fu interrotto da strilli provenienti dal fondo della sala. Si riparò gli occhi per riuscire a vedere, poiché la luce sporca del giorno rendeva biancastra e abbagliante l'atmosfera. Si trattava della lavandaia, che K, subito già al primo apparire, sapeva avrebbe prodotto un grave disturbo. Ora non si poteva stabilire se ne avesse colpa o no. K vide soltanto che un uomo l'aveva attirata in un angolo vicino alla porta e la stringeva a sé. K non pensò più alla coppia. Fu come se la sua libertà venisse limitata, come se l'arresto fosse fatto sul serio, e d'impeto si buttò giù dalla pedana. Ora stava faccia a faccia con la folla. Occhietti neri guizzavano qua e là. Le guance pendevano come quelle degli ubriachi. Le lunghe barbe erano rigide e rade quando le stringevano. Era come se si formassero artigli, non come se stringessero barbe. Ma sotto le barbe, e questa fu la vera scoperta fatta da K, sui baveri delle giacche brillavano distintivi di vario colore e grandezza. «Ah!» gridò K levando in alto le braccia. La scoperta improvvisa aveva bisogno di spazio. «Da quanto vedo siete tutti impiegati, siete la banda corrotta contro cui ho parlato. Vi siete stipati qui dentro come ascoltatori e spioni. Avete formato partiti apparenti e uno ha applaudito per mettermi alla prova. Volevate imparare come si seducono innocenti». Afferrò rapido il cappello che si trovava sull'orlo del tavolo e nel silenzio generale, il silenzio della sorpresa perfetta, si affrettò verso l'uscita. Ma il giudice istruttore sembrò essere stato ancora più svelto di K, perché lo stava aspettando vicino alla porta. «Volevo farle notare soltanto che lei oggi, forse non se ne rende conto, ha rinunciato al vantaggio che un interrogatorio significa sempre per l'arrestato». K rise guardando la porta. «Miserabili!» gridò. «Vi regalo tutti i vostri interrogatori!» Aprì la porta e corse giù per la scala. Alle sue spalle si levò il rumore dell'assemblea che si rianimava per discutere i fatti, probabilmente come fanno gli studenti. Erano passate le 11:30 quando si sentì qualcuno per la scala. Era la signorina Bustner che arrivava. Un istante dopo sarebbe entrata nella sua stanza, dove K a mezzanotte non avrebbe certo potuto introdursi. Doveva dunque rivolgersi subito a lei. «Signorina Bustner, sono io», disse K, facendosi avanti. «Volevo scambiare qualche parola con lei. Me lo permette adesso?» «Adesso? La sto aspettando dalle 9:00. Aspetti qui finché non ho acceso la luce nella mia camera, poi spenga qui la luce. Che cosa desidera dunque? Sono proprio curiosa». Incrociò leggermente le gambe. «La sua camera è stata messa un po' in disordine. Sono stati degli estranei a farlo, contro la mia volontà. E tuttavia, come ho detto, per colpa mia. Volevo chiederle scusa di questo». «La mia camera?» «Sì, è stata qui una commissione d'inchiesta», soggiunse K, sotto lo sguardo interrogativo della signorina. «Per lei?» chiese la signorina. «Lei crede che sono innocente?» «Beh, innocente», disse la signorina. «Non voglio esprimere subito un giudizio che può forse avere gravi conseguenze, anche perché non la conosco. Vede», disse K, «lei non ha grande esperienza in materia giudiziaria». «No, non l'ho», disse la signorina Bustner. «E spesso me ne sono anche dispiaciuta. In ogni modo migliorerò certo le mie cognizioni a riguardo, perché il mese prossimo entrerò nella segreteria di uno studio legale». «Benissimo», disse K. «Così potrà aiutarmi un po' nel mio processo». A questo punto qualcuno picchiò sulla porta della camera vicina con colpi forti, secchi e regolari. La signorina Bustner impallidì e si portò la mano sul cuore. In silenzio, appena curva in avanti, guardava davanti a sé sul pavimento e senza cambiare posizione disse: «Mi scusi, quel bussare improvviso mi ha così spaventata. Ora vada, mi lasci sola. Adesso ne ho ancora più bisogno di prima. I pochi minuti che mi aveva chiesto sono diventati mezz'ora e più». K le strinse la mano e poi il polso. L'abbracciò e la baciò sulla bocca e poi su tutto il viso, come un animale assetato che si getta con la lingua sulla sorgente finalmente scoperta. Alla fine la baciò sul collo, sotto la gola, e lì lasciò a lungo le labbra. La settimana successiva, K attendeva di giorno in giorno una nuova comunicazione. Non poteva credere che avessero preso alla lettera la sua rinuncia ad essere interrogato. E quando l'attesa comunicazione il sabato sera davvero non arrivò, ritenne di essere tacitamente invitato nella stessa casa per la stessa ora. La domenica quindi vi si recò di nuovo, percorrendo senza incertezze scale e corridoi. Certuni, che si ricordavano di lui, lo salutavano sulle loro porte. Ma lui non aveva più bisogno di domandare a nessuno e arrivò presto alla porta giusta. Appena ebbe picchiato, gli fu subito aperto e, senza voltarsi a guardare la donna conosciuta, rimasta accanto alla porta, si avviò verso la stanza vicina. «Oggi non c'è seduta», disse la donna. «Perché non dovrebbe esserci seduta?» chiese lui incredulo. Ma la donna lo convinse aprendo la porta della stanza vicina. Era vuota davvero. E nel suo vuoto sembrava ancora più squallida della domenica precedente. Sul tavolo rimasto allo stesso posto sulla pedana erano alcuni libri. «Posso guardare quei libri?» chiese K, non perché interessato in modo particolare, ma per non essere arrivato fin lì proprio invano. «No», disse la donna e richiuse la porta. «Non è permesso. I libri appartengono al giudice istruttore». «Beh, allora torno via», disse K. «Debbo riferire qualche cosa al giudice?» chiese la donna. «Lo conosce?» chiese K. «Naturalmente», disse la donna. «Mio marito è usciere del tribunale». Solo a questo punto K si accorse che la stanza, dove l'altra volta si trovava soltanto una tinozza, appariva adesso tutta mobiliata. La donna notò il suo stupore e disse: «Sì, qui alloggiamo gratis, ma nei giorni d'udienza dobbiamo liberare la stanza. Il posto di mio marito presenta qualche svantaggio». «Non mi stupisco tanto della stanza», disse K, guardandola con aria rabbuiata, «quanto del fatto che lei è sposata. Allude a quello che successe durante l'ultima udienza quando la disturbai mentre parlava?» chiese la donna. «Naturalmente», disse K. «Oggi è passato e quasi dimenticato, ma in quel momento mi rese furibondo. E ora proprio lei mi viene a dire che è sposata. Se il suo discorso venne interrotto, non fu a suo svantaggio. Continuarono a giudicarla molto sfavorevolmente dopo che se ne fu andato». «Può darsi», disse K, senza raccogliere. «Ma questo non la scusa». «Sono scusata agli occhi di tutti quelli che mi conoscono», disse la donna. «Il tipo che quel giorno mi abbracciò mi perseguita già da un pezzo. Potrò non essere seducente per tutti, ma per lui lo sono. Non c'è rimedio. Anche mio marito ha finito con l'adattarsi. Se vuole conservare il posto, deve sopportarlo. Perché quello è uno studente e arriverà, è prevedibile, a posizioni di comando». «Il fatto rientra nel quadro», disse K. «Non mi sorprende. Lei pensa di migliorare qualcosa qui dentro?» chiese la donna cauta e lenta, come se facesse una domanda pericolosa tanto per sé quanto per K. «L'ho già dedotto dal suo discorso, che pure personalmente mi è piaciuto molto. Ne ho sentito, è vero, solo una parte. Il principio l'ho mancato e durante il finale stavo distesa con lo studente sul pavimento. Qui tutto è così brutto», disse dopo una pausa, afferrando la mano di K. «Crede che le riuscirà di ottenere un miglioramento?» K sorrise e girò un poco la sua mano nelle mani morbide di lei. «Veramente», disse, «non è affar mio ottenere qui miglioramenti, come lei si esprime. E se lei lo dicesse, per esempio, al giudice istruttore, le riderebbe in faccia o la punirebbe. Di fatto non mi sarei certo mai mescolato di mia iniziativa in queste faccende. E la necessità di miglioramento di questo tribunale non mi avrebbe mai turbato il sonno. Ma poiché, a quanto pare, fui arrestato, sono infatti in arresto, sono stato costretto a intervenire qui e precisamente nel mio interesse. Se con ciò, tuttavia, potrò in qualche modo essere utile anche a lei, lo farò, naturalmente, molto volentieri. Non solo per amore del prossimo, ma anche perché lei a sua volta potrà aiutarmi». «Come potrei farlo?» chiese la donna. «Mostrandomi, per esempio, quei libri là, sul tavolo». «Ma certo!» esclamò la donna, tirandoselo dietro d'impeto. Erano libri vecchi, sciupati, il piatto d'una legatura era quasi spaccato a metà. I due pezzi erano tenuti insieme solo da sfilacciature. «Come tutto è sporco qui!» disse Kappa scuotendo la testa. E la donna, prima che Kappa prendesse in mano i libri, tolse in fretta con il grembiule almeno la polvere esterna. Kappa aprì il libro che stava sopra. Apparve una figura indecente. Un uomo e una donna sedevano nudi su un canapè. L'intenzione volgare del disegnatore era scoperta, ma la sua goffaggine era stata tanta che alla fine si vedevano soltanto un uomo e una donna che venivano fuori troppo corposi dall'illustrazione, seduti troppo rigidi e in atto di volgersi a gran fatica per un errore di prospettiva uno verso l'altro. Kappa non sfogliò oltre, ma si limitò ad aprire il frontespizio del secondo libro. Era un romanzo intitolato «I tormenti che Grete dovette subire da suo marito Hans». «Ecco i codici che si studiano qui», disse Kappa. «Da gente simile devo essere giudicato». «La aiuterò», disse la donna. «Vuole? Potrà davvero farlo senza correre lei stessa pericolo? Ha detto prima che suo marito dipende molto dai superiori». «Voglio aiutarla lo stesso», disse la donna. «Venga, dobbiamo parlarne. Non accenni più al mio pericolo. Io temo il pericolo soltanto là dove lo voglio temere. Venga». Gli indicò la pedana e lo invitò a sedere con lei sul gradino. «Ha dei begli occhi scuri», disse dopo che si furono seduti, fissando Kappa di sotto in su. «Dicono che anche io ho dei begli occhi. ma i suoi sono molto più belli. Del resto mi colpirono subito quando lei entrò qui la prima volta. Furono essi la ragione per cui venni poi qui, nella sala delle riunioni, cosa che di solito non faccio mai e che in un certo qual modo mi è persino proibita. Ecco come stanno le cose, pensò K. Costei mi si offre, è corrotta come tutti qui intorno. È stufa degli impiegati del tribunale, cosa comprensibile, e perciò accoglie qualsiasi estraneo facendogli complimenti per i suoi occhi. E K si alzò in silenzio, come se avesse espresso i suoi pensieri ad alta voce, e spiegato così il suo contegno alla donna. Non credo che lei possa aiutarmi, disse. Per aiutarmi davvero bisognerebbe avere rapporti con altri funzionari. Lei invece conoscerà di sicuro solo gli impiegati in sottordine, che qui circolano numerosi. Questi li conoscerà certo molto bene e potrebbe anche ottenerne qualche cosa, non ne dubito. Ma il massimo che potrebbe ottenerne non avrebbe nessun peso per l'esito definitivo del processo. Lei potrebbe farmi sempre un favore dicendo al giudice istruttore o a chiunque altro diffonda volentieri notizie importanti che non sarò mai indotto a fare regali e con nessuno dei trucchi di cui quei signori dispongono con larghezza. Sarebbe vano. Può dirlo loro chiaro e tondo. Del resto se ne saranno forse già accorti da soli. E se anche non fosse così, non mi importa poi tanto che lo sappiano già ora. Quei signori certo risparmierebbero solo fatica. E io, d'altra parte, fastidi, che però prendo su di me volentieri, se so che rappresentano uno per uno un colpo per quella gente. E ci penserò io che vada così. Lei conosce davvero il giudice istruttore? Certo, disse la donna. Proprio a lui pensavo in un primo momento, quando le ho offerto il mio aiuto. Non sapevo che è soltanto un impiegato in sottordine, ma se lei lo dice sarà così. Per me, in ogni modo, credo che il rapporto che manda ai superiori abbia comunque una certa influenza. E di rapporti ne scrive tanti. Lei dice che i funzionari sono pigri, non certo tutti. Questo giudice istruttore in particolare non lo è. Scrive moltissimo. L'ultima domenica, per esempio, l'udienza durò fino a sera. Se ne andarono tutti, ma il giudice istruttore rimase in sala. Gli dovetti portare una lampada. Avevo soltanto una piccola lampada da cucina, ma lui fu contento lo stesso e cominciò subito a scrivere. Thank you. Di colpo si interruppe. Posò la mano sulla mano di K come per acquietarlo e sussurrò: «Zitto! Bertolt ci guarda!» K alzò lentamente lo sguardo. Sulla porta della sala era un giovane piccolo con le gambe non proprio dritte che cercava di darsi un contegno passando di continuo le dita in una barba rossiccia, corta e rada. K lo guardò con curiosità. Era il primo studente di quell'ignota giurisprudenza che incontrava, per così dire, da uomo a uomo. Una persona che un giorno probabilmente sarebbe arrivata ad un posto elevato. Lo studente invece non sembrava occuparsi punto di K. Fece un cenno soltanto con un dito, tolto per un istante dalla barba alla donna, e si accostò alla finestra. La donna si chinò su K e sussurrò: «La prego, non si arrabbi con me. Non pensi neppure male di me. Adesso devo andare da lui, da quel mostro. Guardi solo che gambe storte ha. Ma tornerò subito e verrò con lei, se mi prenderà con sé. Verrò dove vuole lei. Può fare di me quello che vuole. Sarò felice se starò via di qui il più a lungo possibile. Tanto meglio se per sempre.» Accarezzò ancora la mano di K. Balzò in piedi e corse alla finestra. Istintivamente K fece per agguantare nel vuoto la mano di lei. Quella donna lo attirava davvero. Per quanto ci pensasse, non trovava una ragione sufficiente per non cedere alla tentazione. La fuggevole obiezione che la donna lo catturasse per il tribunale fu respinta senza sforzo. In che modo poteva catturarlo? Non gli restava sempre tanta libertà da fracassare l'intero tribunale, almeno per quanto lo riguardava? Non poteva avere in sé questo minimo di fiducia? E l'offerta di aiuto da parte di lei era sincera e forse aveva il suo peso. E forse non c'era vendetta migliore nei confronti del giudice istruttore e di chi lo assisteva che togliere loro quella donna e prendersela per sé. Una volta sarebbe potuto succedere che il giudice, dopo un faticoso lavoro su mendaci rapporti relativi a K, trovasse a notte fonda il letto della donna vuoto. E vuoto perché essa apparteneva a K, perché quella donna vicino alla finestra, quel corpo opulento, agile, caldo, dentro un abito scuro di stoffa dozzinale e pesante, apparteneva soltanto a K. Per curiosità, K si affrettò verso la porta. Voleva vedere dove la donna veniva portata. Lo studente non l'avrebbe certo portata in braccio anche per strada. Il percorso si rivelò molto breve. Proprio in faccia all'appartamento, una stretta scala di legno conduceva probabilmente in solaio, formando un angolo di cui non si vedeva la fine. Lo studente portava la donna su per questa scala, ormai molto adagio, ansando indebolito per la corsa già fatta. La donna salutò con la mano K, giù in basso, alzando e abbassando le spalle, cercava di fargli capire di non avere colpa del rapimento. Ma quel gesto non esprimeva rammarico eccessivo. K la guardava senza espressione, come un'estranea. Non voleva rivelare di essere deluso e neanche di poter superare facilmente la delusione. I due erano già scomparsi, ma K stava ancora sempre sulla porta. Doveva ammettere che la donna non solo lo aveva ingannato, ma gli aveva anche mentito, affermando di venire portata dal giudice istruttore. Il giudice istruttore non poteva stare certo in solaio ad aspettarla. La scala di legno, per quanto la guardasse, non rivelava nulla. Ad un tratto K vide al principio della scala un cartellino. Si avvicinò e lesse, a caratteri infantili, maldestri, «Accesso agli uffici del tribunale». Lì, nel solaio di quella casa d'affitto, si trovavano dunque gli uffici del tribunale. La sistemazione non poteva ispirare molto rispetto, ed era di sollievo per un imputato immaginare quanto poco denaro aveva a disposizione quel tribunale, se era costretto a sistemare i suoi uffici là, dove gli inquilini, pure poverissimi, buttavano il loro inutile ciarpame. Non era però neppure da escludere che ci fossero denari bastanti, ma che i funzionari ci si buttassero sopra prima che venissero utilizzati ai fini della giustizia. Il terzo anello, ad alta voce. Il processo di Franz Kafka.